tempo passa, le giornate volano, le stagioni del Breakfast Club continuano ad essere presenti e il voltiamo pagine è arrivato per il 2023-2024 alla penultima puntata per la rubrica letteraria. Eh sì, quest'oggi, la prossima e poi sarà il 31 luglio che, come ben sapete, le affezionate e gli affezionati del Breakfast Club, l'ultimo giorno di programmazione è totalmente libero e destinato a saluti e ringraziamenti, così a me piace e quindi così porterò avanti anche questa seconda edizione, questa dodicesima edizione. Beh, 10 più 2, ecco, volevo essere più preciso. Dopo questa presentazione con un che di solenne, è d'accordo Silvia Albertazzi con me e con queste modalità, alla quale do il buongiorno. Bentrovata Silvia. Buongiorno anche a te, bentrovato non lo dico perché non ti trovo affatto bene conciato in quel modo, comunque. E conduzione estiva, questa è la classica conduzione estiva di Bermuda e Infradito, allora, finalmente è arrivato. Il nostro pubblico può essere soddisfatto che siamo in radio. Ah, ok, beh, non essere così categorica, però mi rendo conto che non è certo modo di presentarsi, si potrebbe dire, hai capito? Ma intanto siamo in radio, Radio Città Fujiko con il Mercoledì Magico, playlist musicale curata da Silvia e Stefano, e iniziamo con una playlist invece letteraria. Oltretutto aggiungo, come ho detto in precedenza, la possibilità di portare a casa le pubblicazioni presentate forse anche da Silvia Albertazzi. In effetti in questo caso vedo un pacco a sorpresa con una bella carta rossa a sorpresa per voi, e probabilmente, so intuito bene, la tua presentazione sarà per un volume, ma quello che verrà poi al premiato sarà un altro lavoro a sorpresa. Confermi? Sì, confermo. Iniziamo con quello invece ufficialmente protagonista in questa partenza. Dunque, il volume che ho portato, il libro che ho portato oggi non è una uscita recentissima, è uscito in gennaio, in febbraio di quest'anno comunque, e mi ero dimenticata, non so perché non l'avevo presentato quando l'ho letto, forse è stato sorpassato, surclassato da altri, non ne ho idea. Fatto sta che quando l'ho visto in casa ho detto: no, non è possibile che facciamo passare questa stagione senza presentare l'ultimo libro di Joseph O'Connor. Che ecco perché lo tieni. Perché. È uno dei miei autori favoriti proprio, Joseph O'Connor, e penso sia anche uno dei migliori autori di lingua inglese viventi. Dunque, Joseph O'Connor è irlandese, il suo ultimo libro, sempre edito da Gwanda, è La casa di mio padre, che stranamente per questo autore è ambientato in Italia, a Roma, durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1943, e parla, racconta, naturalmente romanzandola, la storia però vera di un sacerdote che durante la seconda irlandese che durante la Seconda Guerra Mondiale mise in salvo parecchi ebrei e nascose molti partigiani a rischio della sua stessa vita. Questa storia è raccontata però, come è proprio di Joseph O'Connor, non in maniera così tradizionale, lineare, ma attraverso i documenti, le dichiarazioni, le più o meno inventate, e i monologhi interiori di personaggi che gli sono stati intorno in quel tempo, nonché dello stesso protagonista. In effetti questo sacerdote aveva messo su un coro formato, lui era a distanza al Vaticano, e sappiamo che il Vaticano era una terra franca, un territorio franco durante la guerra, e aveva impiantato un coro formato da personaggi presi da tutte le estrazioni sociali. Si andava da una contessa all'edicolante di piazza del Vaticano, e in questo coro era poi soltanto una copertura per il la, che però era un coro che funzionava bene, insomma, cantavano anche benissimo, sapevano anche cantare, però era una copertura per l'attività, appunto, certo, antinazista, diciamo, per l'attività di aiuto soprattutto, come ripeto, agli ebrei di Roma e ai partigiani, che veniva offerta da questi personaggi. Ora, il nucleo del romanzo è una notte, la notte della vigilia di Natale del 1943, in cui il Monsignor Hugh O'Flaherty si trova da solo per una serie di motivi, perché malattia di qualche suo alleato o anche paura di compromettere troppo la vita di alcune persone che hanno casa e famiglia, si trova da solo a dover mettere in piedi un'azione, a dover portare a termine un'azione molto pericolosa, di cui tra l'altro il capo, il gerarca, il capo dei nazisti di stanza a Roma è in qualche modo venuto a conoscenza. Quindi diciamo che c'è attorno alla storia personale di questo sacerdote, di cui impariamo come era arrivato a Roma, perché e per come, e alle storie dei personaggi che fanno parte del suo coro, c'è poi il tutto si concentra alla fine in questa notte. Questa notte di vigilia di Natale, in cui il prete, molto fra l'altro malato, febbricitante, si trova a muoversi in una Roma dove c'è il coprifuoco, quindi una Roma, certo, buia, una Roma tetra, sì, occupata, spostandosi da ponte a ponte, nascondendosi sotto i ponti, accanto, presso il Tevere, eccetera, sempre, ripeto, a rischio della propria incolumità. Quindi questa parte è decisamente molto affascinante, molto, molto avvincente. Il resto del romanzo è ugualmente avvincente, perché non è il solito romanzo di guerra, insomma. Non è il solito romanzo di guerra, non è il solito romanzo dove si romanzo o anche documento, se vogliamo, dove si parla delle azioni meravigliose di un eroe di guerra, ma è una sorta di puzzle in cui ogni personaggio in qualche modo è una tessera che deve trovare il suo posto, e molti di questi personaggi si immaginano intervistati a distanza di 20-30 anni dall'accaduto. Alcune di queste interviste sono reali, altre ovviamente se le immaginate O'Connor. O'Connor che ci dice appunto alla fine, lo dice lui per primo, lo spiega lui per primo in una nota finale, cioè questo, se da un lato la casa di mio padre è ispirato a persone ed eventi reali, dall'altro è anzitutto un romanzo e un'opera di fantasia. Mi sono preso molte libertà con i fatti, la caratterizzazione dei personaggi e la cronologia. Quindi, dice, ho concentrato molti episodi, ho rinominato dei personaggi, ho inventato qualcosa, però il nocciolo c'è, è il vero, c'è, esiste, è qualcosa realmente che esiste. Sì. Aggiungo alcune informazioni. Allora, casa editrice, scusa? Guanda, e oltretutto volevo chiederti se questo lavoro è stato portato hai detto gennaio 2024? Gennaio-febbraio, all'inizio, okay, di quest'anno. E non è una seconda pubblicazione? No. Questo è l'ultimo. Potrebbe essere nella cinquina Pellegrino. Sì, da questo come è l'ultimo parlato, romanzo, ecco. È l'ultimo romanzo scritto da O'Connor. Si trova ancora nelle librerie, sì, certo, comodamente. Cioè, semplicemente mi sono stupita quando l'ho visto in casa, ho detto ma come? Non ho mai parlato di questo romanzo, perché sì, io l'ho letto quando è uscito, quindi avrei potuto parlarne, che ne so, in febbraio, in marzo. No, no, certo, e invece, cioè, capita quando si legge così poco, Silvia, sì, appunto, poi oltretutto. Appunto. No, ma poi magari, sai, succedeva che qualche romanzo, qualche lavoro me l'avevano prestato, per cui sì, dovevo restituirlo, e allora passava davanti a quelli che erano miei proprio. Che allo stesso tempo, però, come hai detto, merita tantissimo. Attenzione, sì, attenzione, non è che il premio dopo il quiz sarà una seconda scelta. No, immagino, questo vorrei dirlo. Il breve, diciamolo, il partecipate. Il libro misterioso che ho, che bello, incartato, è un'opera di, di uno dei maggiori scrittori sudamericani viventi. Quindi sì, siamo sempre a livello di classici moderni. Non avete il premio di consolazione, no, avete un premio. Avete un premio, avete sì, un premio, ecco. Playlist, iniziamo con il primo brano, sì, da un'idea di Stefano, dalla copertina. No, no, sì, ci siamo, sì, è stato un lavoro d'insieme. È stato un lavoro d'insieme scegliere i brani per questo libro, che non era facile, non erano facili da trovare dei brani. Abbinare. Quindi abbiamo preso dei brani che avessero in qualche modo affinità con la notte. Ci siamo concentrati su questa notte. Lui si muove in questa notte. Questa notte, quella poi era anche una notte di Natale, in cui si muove questo personaggio, questa notte molto molto inquietante, perché poi lui malato. Lui malato. Vecchio. No, non tanto, no, vecchio, avrà... L'ho aggiunto io, di mia fantasia. Mi sono, non so. Nelle tue parole mi sono immaginato anche una persona un po' âgée. No, direi tra i 45 e i 50. No, no, scusate, parola torna indietro dalla però, mia fantasia. Però senza dubbio malato in questo momento, con la febbre eccitante, e Roma piena di nazisti e di fascisti, perché qualcuno ha fatto una soffiata e si sa che quella notte deve capitare qualcosa. Perdonate la mia divagazione inesatta, ma capita, no? Quando vengono raccontate le trame, di immaginare i personaggi, e a volte ce li immaginiamo sbagliati. No, no, probabilmente sono io che... No, poi c'è l'idea, no? Il prete sarà vecchio. È vero, anche quello ha influito in questo mio prete giudizio che, immediato. Tra l'altro lavora, cioè, in Vaticano, quindi immagini tutti quei... No, lui è semplicemente finito lì perché, adesso non ricordo più per quale motivo, era in Italia e era stato mandato in Italia e aveva a visitare, tra l'altro l'avevano mandato a fare una ricognizione tra i prigionieri di guerra inglesi in Italia. Perché avevano mandato lui? Perché era irlandese. Ah. E siccome c'è un astio, no? Ovviamente tra Irlanda e Inghilterra, erano tranquilli che se ci andava un prete irlandese, se anche vedeva che i prigionieri di guerra erano trattati male, non se ne sarebbe non avrebbe fatto proteste. Al contrario, questo, quando vede questi poveretti trattati veramente in maniera raccapricciante, fa un esposto. Ha abbandonato totalmente questo astio. Beh, la carità cristiana è venuta prima. Va oltre. E quindi fa un esposto, e questo esposto gli procura le ire della gerarchia. Eh certo. Allora, da prete, diciamo, in qualche modo, tra virgolette, di strada che era, lo confinano in Vaticano. Sì. Gli dicono: tu adesso te ne devi stare in un collegio in Vaticano, un collegio che, da come viene descritto, estremamente basico, squallido direi, tu te ne devi stare lì con gli altri pretini in Vaticano e zitto. Preghi e zitto. Sì, e puoi uscire soltanto entro un certo perimetro. Non puoi andartene di qua e di è là. Relegato, è relegato. La parola giusta, quindi, è relegato. Il fatto che lui poi quella notte decida di fare lui quell'azione, piuttosto che mandarla a monte, vuol dire che va anche contro le restrizioni che gli erano state imposte. Certo, passiamo alla musica. Allora, copertina molto bella, però sì, è notte, sì, in effetti. È molto notte, sì. Da quello che abbiamo capito, deve essere un gruppo tedesco. Ok. The Boar of Gore, quando non mi ricordo più. La canzone si chiama Prowling. Prowling vuol proprio, prowler vuol proprio dire uno che cammina guardingo, che si così di soppiatto. Di soppiatto. Thank you. molto attinente alle parole che abbiamo appena ascoltato nella trama dal lavoro presentato di Silvia, questo noir jazz alle 8 e 19 minuti, se così lo possiamo definire. Ha iniziato in questo modo la playlist musicale oltre che la playlist letteraria con il lavoro di Joseph O'Connor per le pubblicazioni Guanda. Mi puoi ripetere il titolo? La casa di mio padre. Anche, non dico un volume corposo, ma insomma ha le sue pagine. È abbastanza corposo, anche perché è scritto piccolino. E diamo le informazioni logistiche, noi siamo bravissimi in questo. Però si legge, cioè una volta che lo cominci vuoi sapere come va a finire. Sì, poi lui è un grandissimo scrittore, sì. Quindi dalle tematiche, seppur appunto Seconda Guerra Mondiale, un periodo ben definito, lavori di cui abbiamo già parlato come palcoscenico, anche il mio non riporta questa tempistica, ma si rivolge alla Prima Guerra Mondiale, pensa un po'. Non è appunto però una narrazione come possiamo immaginare, tante ne sono uscite anche dal punto di vista di documentario, e per quello poi il valore letterario diventa la differenza, quello che fa la differenza, il delineare i personaggi, la modalità di scrittura che vanno ad aggiungersi allo scrivere bene e alla bellezza che già di per sé di contenuto dà valore aggiunto a quello che nell'immediato potrebbe essere definito. Ah sì, ok, è il classico libro che parla di un determinato periodo storico, ne abbiamo già letti tanti. No, non è questo il caso, almeno da quello che ho intuito e percepito, anche se ho sbagliato l'età del prete, direi che per quanto riguarda le altre linee sono stato più attento. Alle 8 e 21 minuti faccio un'altra divagazione. Abbiamo degli appuntamenti, Silvia, per no, questa oramai settimana? siamo in no. Estate, non c'è più niente di... Non c'è più niente da fare, no, non è vero, invece c'è come questa sera con Mini Express in via Fioravanti 68, la curatele di Binario 69 Estate, per questa open console. Anzi, se volete portare, voi avete dei vinili bellissimi tra l'altro, chi noi? Sì, noi. Avete noi dei vinili stupendi, per cui invitati questa sera o uno dei mercoledì fino al 31 luglio per quanto riguarda questa open console con Mini Express, e poi è dalle 18 alle 21, quindi insomma è un orario molto azzeccato secondo me. Volevi aggiungere qualche nota, traduzione? Sì. La traduzione è una buona traduzione, no, non conosco la traduttrice, però è una buona traduzione. No, volevo aggiungere che una curiosità, alla fine del romanzo si fa riferimento a un altro fatto realmente accaduto che è successo al Monsignor O'Flaherty, cioè... O'Flaherty, già il nome. Sì, O'Flaherty. Molti anni dopo, negli anni 60, credo così, fu invitato a partecipare a una trasmissione televisiva inglese chiamata This is Your Life, dove era una roba tipo caramba che sorpresa, insomma, tanto per intenderci, dove lo fecero incontrare con molte delle persone, alcune delle persone che lui aveva salvato, certo, senza farglielo sapere. E c'è stato un film, proprio anche quello quest'anno, mi sembra, non molto tempo fa, con Anthony Hopkins, che raccontava la storia di un altro personaggio inglese che aveva salvato parecchie vite durante la guerra, parecchi bambini soprattutto durante la guerra, e che fu fatto incontrare con questi bambini cresciuti sempre in questa trasmissione This is Your Life. La cosa è abbastanza così, curiosa. Sì. Sarei tentata di chiedere ai nostri ascoltatori come si intitolava questo film con Anthony Hopkins, il problema è che non me lo ricordo neanch'io. Quindi... aiutiamo la prof in questo caso. Casomai, avrete un elogio pubblico. Se volete aiutarmi, sì, la domanda per il quiz è un'altra. Però Accetto anche questo suggerimento. Sì, è perché era un film molto, ovviamente, molto, molto commovente. dove appunto si vedeva questo personaggio che nella sua giovinezza, quando era molto giovane, aveva aiutato a fuggire dalla Polonia, se non sbaglio, Stefano? Il notaio è stato chiamato in causa. Sì, ma stava facendo altro. Comunque sì, dalla Polonia mi pare. Tutta una serie di bambini prima dell'invasione nazista e in maniera molto rocambolesca aveva fatto fuggire questi bambini dalla Polonia, assicurandogli quindi una vita migliore. Diciamo. One life, bravo. Grande Paola, brava. Sì. Molto bene, Paola. Era proprio quello. Elogio ecco, pubblico a Paola. La stessa trasmissione fece incontrare il Monsignor O'Flaherty con le persone che aveva salvato a Roma. E poi è molto particolare, anche per tornare al libro invece, l'idea del coro, che alla fine funziona anche. Sì, sì, certo. Alla fine funziona anche. Quindi, allora, è il momento però del quiz ufficiale, in questo caso, prima dello stacco musicale che ci accompagna alla pubblicità. A te la parola, cara Silvia, sarò attentissimo. Allora, si parla di una notte, nel 1943, c'è un film che racconta ugualmente di una notte dello stesso anno, ambientato non a Roma ma a Ferrara, bellissimo, italiano. Vorrei il titolo di questo film e il regista. Ambientato in una notte a Ferrara, sempre in quell'epoca. Sì. Ambientato a Ferrara, ok. Titolo e regista del film. Del film. Allora, 333-180-9494, stacco musicale, è John Lennon quello che hai portato. Sì, perché la canzone è molto famosa, è molto più allegra di quella di prima, però Whatever Gets You Through the Night significa tutto quello che ti fa passare la notte, che ti aiuta a passare la notte. A tra poco. Whatever gets you through the night. Your life. It's all right. It's all right. Do it wrong or do it right. It's all right. It's all right. Don't need to watch the waste of time. Oh no. Oh no. We'll be right back. siamo nel post rock, Libraness, Yesterday and Tomorrow Shells, la copertina bellissima tra l'altro, che poi come? Mi fa un po' impressione quella copertina. Però è molto bella come immagine, come sì, fotografia, però... con questi insetti impegnati nella costruzione, che poi non sono stercorari, sono come impegnati nella costruzione di un nido, per cui non è così. Il titolo è più inquietante, The Gift Mechanism, il meccanismo del dolore. Sì, il titolo del brano. Il titolo del brano è già un pochettino più inquietante. Ma comunque allora arriviamo alle risposte esatte, quasi tutte. Ringrazio e saluto Giorgio, ben ritrovato Giorgio, grazie. La lunga notte del 43, la regia di Florestano Vancini, confermi? Sì, confermo. Però non è stato così veloce come non lo è stato Dino, che incontrerò questa sera. Ti ricordo che devo consegnare i tuoi vinili, La lunga notte del 43, ma sbaglia la regia, dice Giorgio Bassani. No, in questo caso risposta a metà. Da Luigi, la lunga notte del 43, Vancini, risposta esatta. Paola, la lunga notte del 43, Florestano Vancini, risposta esatta, ma medaglia d'argento, però ha portato l'encomio per quanto riguarda il suggerimento di One Life, che in precedenza ha portato nel Breakfast Club. Andrea torna a essere conferma di super campione, perché risposta esatta in tempi veramente molto molto rapidi, la lunga notte del 43, Florestano Vancini. Grazie Andrea, ti aspetto questa sera per la consegna del premio, in caso che la possibilità di incontro non sia effettuabile, chiaramente alla UBIC in Viernerio 27, certo ci sentiamo e troveremo il modo di consegnarti il libro misterioso portato da Silvia. Scrive Giorgio, ogni volta che vado a Ferrara alzo lo sguardo verso quella finestra dove ti aspetti di vedere Enrico Maria Salerno che sbirce, grande film, storia terribile. Sì, appunto. È vero. Andrea ringrazia ben contento per quanto riguarda questa vincita misteriosa, ma come abbiamo detto di grande qualità. Allora, il mio quiz, ve lo dico subito, sarà molto specifico, non mi meraviglio, e infatti il premio andrà, se non ci sono risposte, perché è un quiz molto specifico, andrà al secondo classificato per quanto riguarda le risposte giunte qui al 333-1809494, sono state veramente tante. Per quanto riguarda il lavoro che vi ho anticipato, per quanto riguarda il conflitto, in questo caso è il primo conflitto mondiale, 1918 la narrazione, 1926 l'uscita. Lui è Peter Flam, ma è uno pseudonimo per quanto riguarda lo scrittore, che pubblica nel 1926 con un inatteso successo questo romanzo che riporta semplicemente il titolo Io, punto di domanda. Pubblicazione da Adelphi. Il nome Peter Flam è lo pseudonimo di Eric Moss, psicoanalista, tra l'altro, tema che ha delle attinenze con il racconto e con lo scambio di persona, tra cui leggo l'incipit del lavoro, se riesco a trovare le righe per dare un'idea di quello che è una narrazione che vede l'equivoco voluto di scambio di persona, che è praticamente una delle tematiche più presenti. Quindi anche in questo caso, ok, un palcoscenico già visto, la prima guerra mondiale, il ritorno e lo scambio di persona o il non riconoscersi, ma in questo caso vi posso assicurare che anche in tutto ciò vi sono delle originalità che rendono unico e l'inatteso successo. Lascerei la parola successo, perché mi rendo conto che Adelphi ha portato a casa e ha ripubblicato un lavoro di grandissima qualità. Non sono io qui. Non è mio questo braccio che si alza. Non sono miei questi capelli ora bianchi. Non è il mio crimine. Non è il mio crimine. Inizia così in un'aula di giustizia per quanto riguarda l'imputato che viene portato con una grave accusa, il duplice omicidio. Willem Bertuk è protagonista, sopravvissuto alla battaglia sanguinosa di Verdun e viene accusato di un duplice omicidio, ma non è lui. In questo caso lo scambio di persona l'ha portato a questa situazione grave. Quindi 1918, da poco finita la guerra, Willem Bertuk, che è un fornaio di Francoforte, inciampa nel corpo senza vita di un commilitone, ne prende il passaporto e ne prende anche l'identità. Così Bertuk, come ho detto, da fornaio di Francoforte diventa Hans Stern, colto e affermato medico berlinese, tra l'altro anche lui psicanalista, per cui Peter Flam, con lo pseudonimo di Eric Moss, ha avuto l'attinenza, lo pseudonimo, lo scambio di persona, un altro nome, un'altra identità, lo stesso lavoro in cui in questa seconda identità va poi a prendere nella quotidianità la vita di Willem Bertuk, che così, senza pensarci due volte, prende il passaporto e i documenti di questo commilitone che senza vita è disteso a terra. Lui si inciampa su questo corpo, prende i documenti e cosa fa? Non solo, lui non ritorna a casa da sua moglie e sua sorella, tutt'altro, lui prende, visto le generalità del defunto commilitone, prende il primo treno senza pensarci per Berlino e subito va a Berlino. Che ovviamente è la città dove viveva Hans con la moglie Gret, con il figlio e un cane. Questo cane è l'unico che ovviamente sì, lo accetterà, questo ve lo anticipo, però qui c'è un rimando, se vogliamo, all'Odissea. È l'unico che non lo accetta, guarda un po', è il cane. E lui in queste vesti, poi chiaramente è una Germania distrutta, quindi non è che può portare la sua professione, però lui in queste vesti, dove viene riconosciuto così formalmente da tutti, ma in realtà nessuno lo conosceva. Viene poi chiamato a distanza di tempo, come vedete con i capelli bianchi viene descritto, no? Quindi lui in questa quotidianità, la vita procede in questo scambio di persona, in questo lavoro completamente diverso che chiaramente non porterà mai, la vita procede, lui è ben contento di andare avanti, di fare tutti i suoi percorsi, anzi è molto riconosciuto, anzi se nessuno lo conosce. Poi arriva il guaio, viene chiamato per appunto una testimonianza e soprattutto per un capo di imputazione per un duplice omicidio. Ecco, da qui poi iniziano i guai, iniziano i percorsi e hai un bel, dopo tanto tempo che hai avuto questo stile di vita e questa quotidianità, hai un bel da portare motivazioni che in realtà tu non sei quello che credono che la Corte di Giustizia in questo caso abbia motivo di sospetto che tu non sia Hans Stern, medico, ma che tu sia ufficialmente invece Willem Bertuk. Lì cambiano tante cose, ovviamente, sia la vita e non solo, per il grosso guaio in cui è inciampato, come è inciampato nella vita del commilitone spezzata dalla tremenda prima guerra mondiale, ma anche con quello che lo circonda, e diventerà veramente una lotta che viene raccontata da Peter Flam, lo pseudonimo di Eric Moss, in maniera assolutamente, se vogliamo, ecco, io mi permetto questo termine, magica. C'è un aspetto di magia che costella perennemente le pagine di un romanzo intitolato così, io semplicemente, e viene raccontato con una disinvoltura, nonostante i contenuti non certo immediati e anche, se vogliamo, a volte molto contorti, ma questo non è motivo di difficoltà, è motivo di valore aggiunto nella lettura. Io, Peter Flam, ad Elfi, è stato pubblicato nel 1926, è uno scambio di persona, è stato un grande successo, capisco che sia stato un grande successo, insomma. Facciamo uno stacco musicale prima del quiz. Il titolo di questo, anzi, il titolo di questo album è L'artista, lui è Enzo Iannacci. Sì, la canzone è una delle canzoni più struggenti di Iannacci, è una canzone proprio sulla guerra. La sera che partì mio padre. La sera che partì mio padre, noi c'era alla finestra a guardare, guardare per vederlo andare. Neanche tanto lontano, non muovere neanche una mano. La sera che partì mio padre, non c'erano canzoni da ascoltare, perché la radio continuò a parlare e mio padre andava per non tornare più. La sera che partì soldato, gli dissero di non sparare, era solo roba di leva militare, bastava dire soltanto alto là. La sera che e arrivò sua madre e lo vide bianco senza più respirare, aveva in mano il telegramma, medaglia d'oro per la Senza volere hai portato colonna sonora anche per il mio libro. Sì, in effetti sì. Silvia, è veramente molto attinente a Io, punto di domanda, Peter Flam, per pubblicazioni ad Elfi. Beh, parliamo anche di pace, con Prince of Peace dei Galliano che accompagnerà la domanda. Domanda, come ho detto, difficile, che va anche a stemprare, se vogliamo, determinati aspetti che giustamente hanno avuto all'interno dei nostri libri, motivo invece di una riflessione diversa. Allora, sto parlando di quello che per me è il capolavoro assoluto cinematografico di tutti i tempi, 1981-1982, Fracchia, la belva umana, e quindi Scambio di persona. Ricorre il compleanno di Lino Banfi e quindi ho voluto dare omaggio anche al co-protagonista assieme a Paolo Villaggio di questa pellicola. Il malcapitato Gian Domenico Fracchia viene quindi riconosciuto, ma non è lui, non è la belva di cui non si farà mai il nome, e farà il giro di determinati posti di polizia, carabinieri, finanza, Digos e quant'altro. In ogni posto viene identificato e accusato di diversi efferrati crimini omicidi. Fino a che arriva e non ne può più in un ispettorato di polizia, e alla fine lui non ne può più di essere vessato con queste accuse inesistenti, che lui a un certo punto non resiste e dice: sì, ok, va bene, sono io, non ne posso più, mi rendo conto, non ce la faccio più con questi interrogatori, sono io. E in questo ispettorato, di fronte a un comandante di forze dell'ordine, prende tutte le prove che aveva accatastato davanti a lui, fino a prendere anche la foto della moglie che tiene il malcapitato interlocutore, così come motivo di ricordo sulla scrivania, e in mezzo a tutto ciò prende anche l'immagine dell'adorata moglie. Quindi lui inizia a elencare: questo sono io alla rapina di Düsseldorf, questo sono io a Città del Messico, questo sono io intanto che mi sono implicato nella strage. Poi alla fine arriva a questa foto ricordo e in maniera interrogativa non capisce, la guarda e si inventa a modo suo e dice: e questa è una nota donna di strada, non dico il termine ufficiale che verrà riportato per ovvi motivi, e questa è una nota donna di strada, e poi dice le origini, l'origine, ma soprattutto la nazionalità, nazionalità e origine di questa figura che a sua volta è lì in mezzo a delle foto segnaletiche, non c'entra assolutamente nulla. E il graduato delle forze dell'ordine risponderà: ma come, quella è mia moglie? Lo so, è una domanda un po' difficile, quindi da voi vorrei sapere la nazionalità che in maniera molto chiara Paolo Villaggio in Fracchia la Belva Umana dice, e altrettanto in maniera chiara dice nazionalità e origine. Lascerò il ricevitore di SMS e WhatsApp aperto per voi, eventualmente le risposte potrebbero arrivare più tardi, se no il libro andrà alla seconda classificata dal quiz portato da Silvia, per cui la nazionalità e le origini di questo scambio di persona, e questa è una nota. Questo è un volto molto noto, dice, anzi. Fino a quando lo lasci aperto? Ah, fino alle 9. Ah, beh, poco, perché non fanno in tempo a rivedersi il film. Ah, no, ma no, quella è quella è una delle scene più esilaranti della storia del cinema mondiale. Lui alla fine dice: ma no, ma come? Ma no, manda i baci. Io sono convinto che sia una santa donna, sa? Anzi, un'ottima madre. Consiglierei agli ascoltatori e alle ascoltatrici di guardarsi attentamente Fracchia la Belva Umana. Capolavoro. Perché una volta al mese perlomeno viene fuori un quiz su quel film. Ma sai che io Andrea lo darei a te, guarda, perché sei stato perfetto, maltese di origini napoletane. No, quella è la mamma della belva, Paola. No, quella è la mamma della belva. Poteva essere Trinacria, origine palermitana. No, quella è la mamma della belva. Siamo arrivati al termine, dai, su. Grazie intanto per la partecipazione, se mi è anche come al solito notevolmente in ritardo, vi diamo appuntamento per l'ultima puntata che sarà mercoledì prossimo. Grazie Silvia, scusa se ho voluto dare citazione l'ennesima al capolavoro con Paolo Villaggio e Lino Banfi. E intanto che aspettiamo il collegamento con Liberi Dentro. Ma posso dire una cosa? Dimmi. Se Andrea ha vinto questo libro, Il mio, potremmo darla a Paola, che aveva anche suggerito Life? Dai. Sono d'accordo, d'accordissimo. E l'appuntamento è a mercoledì prossimo, domani in mostra invece con il Breakfast Club. Sì, volentieri. Okay. Andrea ha detto sì, volentieri. Bene. Ah no, sì, come volete, è diverso. Vi auguriamo una buona giornata, un buon ascolto, un buon mercoledì. Mi raccomando, restate in frequenza sui 103.1. Grazie Silvia, al prossimo mercoledì. Ciao. Grazie a tutte, te, ciao al prossimo mercoledì. Who was first to step foot upon this land? Was it the European man or we the African? Who by 1999?